Ciao, sono Leo Vargheon. Vi aspetto tutti i lunedì e mercoledì dalle 7 alle 8 a Il Mattino all'Oro in Podcast. Un'ora da passare assieme per cominciare per bene la giornata con attualità, cinema, giochi e molto altro ancora. Il Mattino all'Oro in Podcast, sempre e solo su Runtime Radio. Buongiorno, Runtime Radio! Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Il grande reset. Un programma con l'occhi da matto. Di Simone Pizzi. Sì. Ah, beautiful Hof House. Belli di casa, bentornati in questo nuovo episodio, secondo episodio di Il Grande Reset, la trasmissione con l'occhio da matto mia, ma in particolare un occhio da matto, ma tutti e due, ma uno in particolare, proprio ci tiene lui, e guai se gli dite che lui è meno occhio da matto dell'altro occhio da matto, perché far matto è un casino, un gran casino ragazzi. E cercavo di capire durante questi giorni, ma io nella mia storia oramai abbastanza lunga di speaker, di podcast, radio, live, cazzi e mazzi, mi sono sempre domandato, ma ce l'ho un incipit io? Cioè, nel senso, parto in qualche modo, c'ho un mio modo di salutare gli altri, tipo, che ne so, come faceva Beppe Saso, buon salve a tutti, che poi oggi su YouTube lo usano tutti, ma lui fu il primo tantissimo tempo fa, quando ancora la gente non aveva capito le potenzialità di YouTube. Ma detto questo, alla fine c'è anche un altro fatto abbastanza importante, che non ce l'ho, insomma. Non ce l'ho. E allora ultimamente c'è questa cosa dei belli di casa che in qualche maniera un po' mi appartiene, diciamo, appartiene un po' di più rispetto a tanti altri modi. Però io vado un po' a casaccio, quindi fatemi sapere se secondo voi c'è un modo in cui io devo iniziare le trasmissioni, oppure se posso andare tranquillamente a casaccio. Invece, insomma, abbiamo avuto il saluto e il ringraziamento di Radio Anziano, che noi abbiamo ringraziato, che lui ci ha ringraziato, e noi lo ringraziamo un'altra volta. E questo sarà un ciclo perpetuo che andrà avanti again and again and again and again. Ma in realtà, perché parlo anche di questa cosa, poi vi spiego anche successivamente, perché poi l'altro giorno nella sua puntata ha messo il pezzettino dove io parlavo di Radio Anziano, e mi rendevo conto che praticamente tipo sbiascicavo, dicevo cose, non mi si accavallavano le parole, non sapevo cosa dire. E questo succede perché comunque dopo tanto tempo che non facevi una trasmissione alle 7 di mattina, chiaramente questa cosa, insomma, un po' la risenti, no? Te la senti addosso, ti viene proprio contro. E infatti questa mattina sarà anche peggio, perché che cosa è successo? Qui nel grande palazzo degli avveniristici studi di Runtime Radio, appunto, vedete, ieri ci hanno levato le finestre. Perché ci stanno accappottando il palazzo con il bonus 110, e questa situazione è un po', insomma, diciamo, disdicevole, diciamo. E quindi abbiamo dormito con occhio mezzo aperto, mezzo chiuso, io e la guardia della sicurezza interna qui degli studi di Runtime Radio, Michela, e abbiamo detto, vabbè dai, cerchiamo di dormire, ma cercate anche di stare attenti. Tempo 3 minuti netti, così come era previsto. Michela stava sdraiata praticamente, neanche se tu gli menavi lei se... E quindi, insomma, io intanto mi svegliavo, andavo a controllare. Ma sapete che noi negli studi avveniristici di Runtime Radio, quelli costruiti con le avveniristiche attrezzature avanzate al terzo mondo, e insomma, noi abbiamo anche i cani di difesa, e il cane ha detto, vabbè, c'è il cane, ci difenderà il cane. Invece in realtà poi ha dormito tutta la notte pure lui. E vabbè, speriamo che non sia mai bucato nessuno. E anche in questo momento mi trovo in una situazione disdicevole, perché dietro le mie spalle potrebbe iniziare a passare qualche operaio, anche se è un po' presto, diciamo così. E magari stare lì e salutarmi mentre io di spalle, vedete, che ne so, tutto il software Radio DJ con il quale gestiamo questa cosa. Prima di dimenticarmi, però, vi ricordo che questa fine settimana, ma la prossima settimana, sarà anche intensa di attività. Intanto domani mattina io e Michele alle 8:30 saremo live con il nostro solito Disordinati Informati, e durante la prossima settimana ci sarà sempre il solito circolo di tutti quanti gli episodi standard che poi vi ricorderò a fine puntata, e domenica c'è sempre la solita rotazione del meglio di Runtime Radio andato in onda durante questa settimana, ma giovedì ritorna Quando Eravamo Futuro con una puntata dedicata al pensiero analogico, all'home video e alla pirateria, quella brutta. Quindi ragazzi, è una roba bella, sapete, il nostro programma spazio temporalmente dislocato negli anni 70 e 80, e venerdì sera torniamo con Runtime by Night, anzi no, venerdì sera, scusate, cancellazione, sabato sera questa volta eccezionalmente, il 21 torniamo con Runtime by Night, una puntata dedicata alla più stupida spesa della nostra vita, alle nostre più stupide spese della nostra vita. Ci sarà ovviamente anche Capitan Chitarro di Radio Anziano, la radio che ti scatafandra sul divano. E poi che altro devo dire? Devo ringraziare anche tutti quelli che ci stanno sostenendo, continuano a sostenerci, e soprattutto che continuano a comprare sul nostro shop, che proprio prima sono stato cazziato da Morgan sulla chat prima di iniziare dicendo: ma non mettete il link dello shop anche sul sito? Hai ragione, ma il sito adesso ripensiamoci, ragioniamo un po' sopra e vedrete che ce ne saranno delle belle o delle brutte, non so, a secondo della situazione. Antonello Venditti, che è stato il nostro più grande traditore ideologico, no, non è stato il più grande, ce ne sono stati anche altri importanti come lui, e insieme ad altri artisti sono stati poi alla fine il mio romanzo di formazione dell'infanzia, in un'epoca in cui ascoltando questa canzone ti rendi conto che il mondo è cambiato tantissimo, cambiato in un modo incredibile, ma soprattutto non solo è cambiato il mondo, sono proprio cambiati i presupposti, i concetti, i valori, perché poi in realtà sicuramente, anzi non sicuramente, la gente che prende il treno delle 7 per andare a lavorare in fabbrica ci sta ancora, non è che non ci sta, è proprio la percezione della propria dignità come individuo che è cambiata. Oggi noi guardiamo a modelli che in realtà, insomma, dovremmo schifare in teoria, però vabbè, questo è la puntata sulla libertà. Una puntata che, come ho già detto, non vuole essere, insomma, come posso dire, una puntata filosofica, una palla, insomma, fondamentalmente. Vuole essere un po' una puntata d'ascolto, perché a secondo dei diversi punti di vista che usciranno fuori, cercheremo magari di farci dei ragionamenti, ma è una puntata che da un certo punto di vista può sembrare paracula, un po' pigra, perché io sto qui, ascolto voi, mentre che dite cose, e poi magari ci faccio così delle riflessioni, risparmio un po' la gola, risparmio un po' la voce, risparmio un po' così. E non so quanto durerà questa puntata, cercherò di farla durare il meno possibile. Voi dovrete, ma ascolterete noi cosa? Cosa? Degli audio che mi avete mandato, alcuni sono arrivati negli ultimi 2 o 3 giorni e altri sono arrivati mesi fa, quando in Buongiorno un cazzo dicevo: voglio fare una puntata sulla libertà, cos'è per voi la libertà? Poi in Buongiorno un cazzo questa puntata non l'ho fatta, non mi pare di averla fatta, no? Giusto? Mi confermate che non l'ho fatta, ma anche se l'ho fatta la rifaccio, me ne frega un cazzo, perché praticamente ho detto, non era quello il mood, cioè nel senso, parliamo di sta cosa in maniera un po' più serena, ecco, diciamo così, insomma, no? E io inizierei proprio, aspettate, inizierei proprio da Walter. Dunque, Simone mi ha chiesto un pensiero su che cos'è la libertà. Ecco, a me viene in mente che la libertà è quella condizione per cui in una data società tutti possono essere felici senza dover prevaricare gli altri, non so se riuscirò mai a dire prevaricare senza impicciarmi, comunque senza prevaricare gli altri, per sentirsi meglio, per sentirsi migliori, per sentirsi superiori, quindi una società dove ognuno è felice è una società libera, ma la libertà non deve essere appunto a scapito del prossimo. Di conseguenza, molte società occidentali oggi libere non lo sono per niente, non è soltanto un fatto politico specifico, non è un fatto di schieramento dei governi, di posizione dei governi. Il problema è che manca il principio etico nelle persone di vivere cercando di non essere un male per gli altri, quindi concentrandosi un po' sulla propria felicità, ma senza essere invidiosi di quello che hanno gli altri. Ecco, può sembrare una definizione alternativa, ma secondo me la libertà è questo, perché poi a parte la mancanza di questa condizione nella vita, per il resto, perlomeno noi in Occidente, bene o male, ci possiamo considerare molto più liberi di tanti altri popoli, di tante altre persone che si trovano nel mondo. Non lo so, per me è così, semplicemente. Non è certo il potersi permettere la macchina di lusso o il viaggio all'estero o chissà quale altra cosa ad essere una libertà. La libertà di base, appunto, è poter essere felici senza arrecare danno. Poi si possono aggiungere anche ulteriori sfumature, però secondo me quello che conta è quanto vi ho appena detto. Ciao ragazzi. Bene, bene, bene. Trovo interessante questo punto di partenza di Walter, perché in realtà, allora, senza andare a scomodare, voglio dire, ad andare a approfondire nel modo più filosofico, più estremo, insomma, il concetto di libertà, che è molto complicato e soprattutto può essere delineato in migliaia di sottopensieri, e poi cos'è realmente la libertà in senso assoluto, no? Quindi è chiaro che quando uno fa una domanda del genere, cioè, è rivolta al singolo individuo, no? Cioè, cos'è per te la libertà, no? E questo è già un punto di partenza, quello di Walter, che è poi alla fine un punto di partenza anche positivo, cioè, assunto che noi comunque rispetto a tutta un'altra serie di altre realtà siamo più o meno fortunati, diciamo, da questo punto di vista, alla fine, secondo me, è anche semplicemente la possibilità e la serenità e la gioia di poter vivere la propria vita senza incastri, soprusi, cose che comunque in qualche maniera ci condizionano, ci ostacolano, è già un fattore di libertà in quanto serenità, felicità, ma poi ancora pure questa è un po', però insomma anche piacevolezza di vivere la propria esistenza, stare lì col peso del fatto che dovessi incazzare perché tu vorresti fare la tua vita regolare, normale, senza rompere i coglioni a nessuno, però poi c'è sempre qualcosa che ti ostacola perché deve essere così, no? Quindi ecco, insomma, questo è non lo so, ma ispirato questo tipo di pensiero, ed è una cosa che mi è piaciuto partire con questo brano, assolutamente casuale, perché in realtà non ho pensato a un ordine preciso, io l'ho messo in là, molto random, e invece poi alla fine mi faccio una specie di deviazione proprio improvvisa su una persona che concettualmente, anche idealmente, è completamente diversa da quello che è Walter, che è molto più strutturato anche idealmente, no? Nel senso anche concettualmente, ed è l'audio di Olivia. Ciao a tutti, sono Olivia. Qualcuno di voi probabilmente mi conosce con il nome di Girasole. E io mi sono sempre fatta tante domande sul concetto di libertà, su quello che vuol dire, su come uno lo deve intendere, su come uno lo deve portare avanti. E per me non c'è una definizione unica, perché la libertà inizia e finisce dove comincia la libertà altrui, quindi noi vorremmo tutti quanti essere liberi di fare quello che vogliamo, ma non sempre questo poi un comportamento che può fare, tra virgolette, del bene al prossimo. Quindi la libertà personale è veramente un qualcosa di veramente molto molto complicato, e c'è una linea estremamente sottile tra la propria libertà e la libertà degli altri. Ci sono delle situazioni, soprattutto quella che stiamo vivendo in questo periodo, che comunque ti ci fanno riflettere, perché poi al di là della libertà nelle cose quotidiane, nelle azioni quotidiane che si fanno, in questo periodo ci è vietato di fare delle cose. e per esempio nello scorso lockdown c'è stato vietato di uscire di casa, c'è stato vietato di andare in giro, ci sono state vietate veramente tante cose e dall'inizio sembrava veramente una grande rinuncia. Alcune rinunce sono state veramente molto faticose da gestire, però alcune mi hanno fatto capire che forse quello che io pensavo fosse la libertà di fare quello che voglio, in realtà non era propriamente così, ma quei bisogni erano indotti semplicemente da uno stile di vita diverso. E quindi non sempre essere liberi di fare quello che si vuole è veramente questo, secondo me. Io credo che ognuno di noi voglia essere libero di fare quello che vuole, ma questo non è determinato in un senso generale da delle regole, ma viene più, la voglia di poter fare quello che si vuole è determinata soprattutto dal periodo di vita in cui noi viviamo, dallo stile di vita che vogliamo adottare o da quello che vogliamo cambiare. Certo, sicuramente il non poter andare, per esempio nel mio caso, in un altro comune a bere un caffè o a trovare un amico, sicuramente questo è un limite che non mi sta bene e che certo non dipende da quello che ho appena detto, però io mi riferivo più che altro proprio alle azioni di vita quotidiana, ipotizzando un mondo in cui non ci siano restrizioni da Covid, ma in un mondo, diciamo, normale, tra virgolette, come quello che vivevamo inconsciamente prima della pandemia. E quindi questo, un po' contorto, è il mio concetto di libertà e onestamente probabilmente fra un po' forse lo cambierò, perché io ci penso spesso. Ad ogni modo, secondo me cambiare idea non è un segno di non averne una precisa, ma è un segno di intelligenza, perché il mondo cambia sempre e noi cambiamo sempre giorno per giorno. Magari dei cambiamenti più evidenti ci possono essere quando pensiamo a noi adesso e al noi di, che ne so, 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa. E noi cambiamo e quindi è anche giusto che cambino le idee e le nostre considerazioni rispetto alle cose. Allora, diciamo che Olivia poi c'ha l'effetto Davide Gatti, cioè il potere della sintesi è una cosa, però come vedete io poi alla fine non ho preso né condensato gli audio, anche perché non lo ritengo mai giusto in generale, a meno che ovviamente, cioè nel senso, mi occupi tre quarti della trasmissione e diventa un po' più complicato. E non ci ho capito molto, devo dire la verità, insomma, nel senso che i pensieri di Olivia, mentre che esprime una considerazione, spesso fa il suo viaggio durante, non è un pensiero precompilato, no? Quindi alla fine si articola mentre che discute, insomma, e questo è una cosa potenzialmente interessante. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente quest'audio è molto condizionato dal periodo in cui era stato registrato. Stavamo nel post-Covid, quello grosso, insomma, e penso che si capisca anche dal modo in cui lei esprime certe determinate considerazioni, ma soprattutto una cosa sulla quale io non sono d'accordo e quindi mi riavvicino un po' più all'audio di Walter. Secondo me la libertà non è fare quello che ci piace, cioè nel senso quello che ci pare, è poter avere l'opportunità di fare quello che ci piace, che è un po' diverso, cioè nel senso è un po' sottile come differenza, ma è una differenza importante, perché comunque alla fine il voler fare quello che vogliamo suona come io voglio fare quello che mi pare a me e basta, cioè nel senso che è una cosa che io non, diciamo, idealmente non è proprio che, insomma, sono tanto compatibile questo tipo di approccio. Adesso invece andiamo a un audio che invece è arrivato ieri. Voi dice, vabbè, capirai, fate le cose in casa. Sì, sono le cose in casa. Vabbè, c'è qualche problema? Se devo partire la voce. Ci sentiamo l'audio di Michela e poi andiamo con successivamente con un brano. Però prima sentiamoci un attimo Michela. Ed eccomi qua a parlare di libertà in una mattina di pioggia alle 7:30. non sono neanche le 7:30 in realtà, mentre mi dirigo in palestra. E tu direi, e che libertà è? E io ti dico, libertà è anche questo. E libertà è un concetto un po' troppo astratto, soprattutto in questo momento, in questo periodo storico in cui abusiamo di questa parola e raccontiamo di come ci è stata negata. Sicuramente sì, ci è stata negata, ma sicuramente non siamo più capaci di prenderci la libertà di pensare a noi stessi e di fare quello che ci fa bene. E forse in un momento storico come quello che stiamo vivendo, l'unica, diciamo così, l'unica libertà che vale la pena vivere è quella di pensare o di trovare il modo di poter pensare a se stessi prima di tutti gli altri. E forse per me quella è la libertà, è la libertà a cui aspiro e piano piano ci si arriva. E buongiorno Reset, buongiorno a tutti e buon venerdì e assaporate questa libertà nel weekend. E poi l'hanno ficcata sotto, naturalmente, stava lì, è stata investita dalla macchina. No, detto questo, che invece questo è un punto importante, la libertà è anche la possibilità, cioè questo è il mio spunto, poi al di là del pensiero di Michela che comunque condivido, la libertà è anche, diciamo, avere l'opportunità di riorganizzare la propria vita e il proprio tempo in funzione del proprio desiderio, anche della propria voglia di crescere, di avere un contatto con se stessi, di esplorare se stessi e il mondo in generale, no? Ecco, quindi riprenderci il nostro tempo, perché chiaramente in un contesto dove si vive praticamente esclusivamente per lavorare, è chiaro che lì manca un'altra forma di libertà, che è la libertà che noi dovremmo dedicare a noi stessi. E questo secondo me è un punto fondamentale del quale torneremo a parlare nella prossima puntata, il venerdì prossimo, intitolata Living in a Box. Quindi ve lo chiedo subito: cosa fareste voi per riprendervi il vostro tempo, per riprendervi la vostra vita? Cosa sareste disposti a cambiare e a rinunciare della vostra vita? E soprattutto, voi vivreste in un camper? È una bella domanda, ragazzi, quindi attenzione che la prossima puntata, proprio ovviamente Living in a Box, prende spunto poi da un'altra cosa che facevamo io e Michela e che magari un giorno presto riprenderemo a fare. E intanto vi lascio con un brano e poi subito dopo un altro audio, un audio di un artista che non metto praticamente quasi mai, e devo dire che se non metti quasi mai ci sarà una ragione, però non è vero. Ed eccomi qua a parlare di libertà. A posto, avete capito? In una mattina di pioggia alle 7:30. Non sono neanche le 7:30 in realtà. Guarda, la parola libertà mi rimanda direttamente alla musica jazz, che è il genere musicale che ho scelto nella mia vita perché diventasse un lavoro, e benché probabilmente sia stato il jazz a scegliere me, ho sempre avuto la sensazione che la libertà che i musicisti riescono ad avere all'interno di questo genere musicale sia veicolata soprattutto dal linguaggio personale e quindi dalla possibilità di espressione totale, benché fedele a delle regole, per creare insieme agli altri qualcosa di irripetibile e di diverso ogni sera e ogni volta la si suona. Poi, se vogliamo aggiungere anche che la libertà, per quanto mi riguarda, sarebbe anche la libertà di non rispondere a questa domanda, abbiamo chiuso il cerchio. Esatto. Beh, allora intanto Marco, jazzista, turnista, musicista importante anche a livello internazionale, che noi però conosciamo come Marco delle Stupide Creature, quindi noi l'abbiamo conosciuto così e quello rimarrà sempre, insomma, ci vediamo poco, ci sentiamo, ma c'è una profonda amicizia fra me e Marco. E gli spunti di Marco a volte, anche quando sono ironici, poi alla fine comunque c'hanno il loro guida. Intanto è interessante tutta la parte ovviamente della costruzione, la libertà di condividere anche la musica e tutto quanto, ma tutto sommato anche la battuta finale di per sé non è stupida, cioè nel senso non è buttata lì, cioè comunque c'è un pensiero dietro, perché io sono libero anche di non risponderti, ma non solo, sono anche libero di non pensarci che cos'è la libertà, no? Il che da un certo punto di vista, secondo me, ti rende già libero, perché comunque vuol dire che non hai bisogno di pensare a quella cosa, perché quel livello di libertà che comunque ti circonda in qualche maniera già è sufficiente secondo i tuoi parametri, secondo quello che ti aspetti tu dalla vita, ovviamente, come tipo di libertà. Io credo al fatto che la libertà non sia in senso stretto la capacità o la possibilità di fare quello che ci pare. Non è tanto questo, quella è una cosa diversa secondo me. La libertà sta invece nella nostra percezione. Mi spiego meglio. Io sono convinto che sei veramente libero quando fai le cose veramente con un atteggiamento di libertà. Perché molto spesso la gente tende a ingabbiarci in degli schemi. Uno potrebbe anche dire solo: sì, fai come ti pare, però se fai come ti pare in questa maniera che non mi sta bene a me, io non ti parlerò mai più. Ecco, in questo stato noi non viviamo la libertà, noi viviamo solamente una costrizione emotiva da parte di qualcun altro. Quindi, ripeto, la libertà non sta nel poter fare quello che ci pare, quando ci pare, perché questo è semplicemente lo stato delle cose, noi abbiamo la capacità di fare tutto. La libertà sta nel nostro atteggiamento nei confronti di queste cose, quando noi ci prendiamo la responsabilità di fare quello che ci pare e riusciamo a viverlo con la giusta serenità, o quantomeno rendendoci conto che ogni nostro gesto ha un peso e una conseguenza. Ecco, quando riusciamo veramente ad accettare quel peso e quella conseguenza, allora sì, lì stiamo veramente vivendo la libertà. Allora, Leo, ovviamente, Leo Vargon, il Mattino Loro in podcast. E l'incipit secondo me è proprio il punto di partenza, che poi insomma ci abbiamo già dibattuto diverse volte, e cioè comunque la libertà non è fare quello che ti pare, cioè in generale secondo me. E tra l'altro Leo è uno di quelle persone che, pur avendo magari una base di partenza dal punto di vista magari mentale, culturale, che è una base che io ritengo anche solida, è anche una persona che si sposta di lato, cioè nel senso cerca di esplorare anche, diciamo, visioni che non necessariamente sono così parallele o compatibili magari con il suo modo di vivere l'esistenza, o del magari, ecco, appunto del presupposto di partenza della sua idea, ma è uno che cerca, insomma, di integrare all'interno del suo pensiero una serie di situazioni multiple. Questo chiaramente a volte crea un po', secondo me, di confusione in generale nell'esposizione, perché chiaramente vorresti integrare questa tua volontà di accogliere anche pensieri laterali diversi magari dal tuo, però poi chiaramente, insomma, nel farlo comprendere, insomma, diventa tutto un po' più complicato. Però ecco, diciamo che mi trovo sempre d'accordo con gli spunti di Leo, anche quando non sono d'accordo. Non so, che è un concetto un po' astruso, però insomma è così, cioè nel senso che comunque è una di quelle persone che tu ascolti anche quando a volte ti fa incazzare, cioè nel senso dici: ma che sa di questo, cioè nel senso ti metti le mani nei capelli, ma non perché, cioè vedi, è perché chiaramente non possiamo essere sempre tutti d'accordo sulla stessa linea d'onda, insomma, anche se siamo all'interno di una radio che ha un presupposto ideale, cioè nel senso non ha nessun tipo di vincolo, e lo abbiamo dimostrato più di una volta dal punto di vista editoriale. Nessuno di noi entra nel merito della produzione dei podcast o delle live degli altri, mai questo è mai successo. Chiaramente c'è un limite morale che Runtime Radio comunque alla fine cerca sempre di mantenere, e questa è un po' la cosa importante. Comunque, grazie al contributo di Leo, e adesso c'è invece un contributo che di una persona che anche lui ha delle difficoltà con la sintesi, ma questa volta ci ha sorpreso. Insomma, tre minuti si possono ascoltare. Alex: parlare del concetto di libertà è una cosa molto delicata, e credo di essere la persona che abbia meno competenza in materia, e sia dal punto di vista sociale che umano. È difficile raccontare qualcosa che probabilmente è un concetto primitivo, e di conseguenza posso soltanto dire quello che mi ispira a questa parola. Gaber diceva: la libertà è partecipazione. Io credo che la libertà sia più che altro responsabilità, nel senso che la possibilità di pensare, di parlare e di fare qualcosa perché la voglio fare deve essere commisurata alla responsabilità che questo, tra virgolette, potere ti dà, e di conseguenza è sempre una sorta di piccolo grande bilanciamento, perché qualcuno diceva: la mia libertà inizia dove finisce la tua, o viceversa. È il concetto stesso di responsabilità della libertà, nel senso di un bene comune che non può essere abusato. E tutte queste parole potrebbero essere delle frasi fatte o un modo molto semplificato di raccontare il nulla. La realtà è che in questo momento storico, dopo un anno terribile e un altro paio di anni che ci aspettano come quello, abbiamo sentito molte delle nostre piccole libertà che sono state vincolate, e questo ci ha fatto pensare molto a che cos'è la libertà e che cosa possiamo fare, dove possiamo andare, cosa possiamo dire, cosa possiamo pensare. Grazie al cielo, pensare è una cosa che possiamo permetterci ancora tutti, parlare abbastanza. Adesso il fatto di dover scegliere o di non poter scegliere alcune cose che si possono fare o non fare, posti in cui andare, persone con cui relazionarsi, e questo ci ha fatto ben capire il valore di tante piccole cose che giustamente davamo per scontate, ed è giusto che diamo anche abbastanza per scontate. E in questo 2021, in cui alcune libertà ci sono state un pochettino riconsegnate, lo vediamo tutti insieme che dobbiamo essere molto responsabili, perché è un po' come quelle norme che ci sono ma non c'è la pena se vengono infrante. In questo momento sto andando in giro in automobile per motivi più o meno di lavoro, e questo più o meno che è una sorta di, insomma, camminare sulla lama di un rasoio, perché la mia libertà, tra virgolette, può essere anche un pericolo per la libertà e anche la vita delle altre persone. Di conseguenza l'approccio che uno si pone, soprattutto che io mi pongo, ecco, in prima persona, è veramente quello della responsabilità. Ogni volta che devo fare qualcosa, che sia andare a fare la spesa, che sia andare a portare fuori il cane per fare la cacca, che sia come stamattina svolgere un compito che non era necessario, potevo gestire in qualche modo, ecco, ogni volta devo fare i conti bilanciando a questa cosa, questa piccola libertà che mi sto prendendo, come può avere influsso e ricadute sulla libertà e sulla sicurezza di tante altre persone, di tutti gli altri. E come al solito io faccio delle domande a cui non so darmi delle risposte. La vera risposta è che, utilizzando ancora il termine libertà che diventa sempre più ripetitivo e di conseguenza magari potrebbe perdere un po' del suo valore, tra parentesi speriamo di no, necessita di tanta tanta tanta consapevolezza. Non lo so se ho detto tutto quello che aveva senso dire, e lascio la parola ai miei compagni. Ciao. Bene bene, allora, pure gli audio di Alex sono un viaggio, perché lui prima parla dicendo, cioè lui parte dicendo: io non lo so se sono titolato per parlare di libertà, perché ci vuole come posso dire, ci vuole una patente specifica per poter fare questa cosa, no? No, a parte scherzi, cioè, nel senso, sei una persona che vive privo della propria libertà, per cui non puoi parlare di libertà, no, non penso, no, quindi va alla fine. E poi fa un ragionamento sensato che fino adesso probabilmente non abbiamo affrontato, anche se poi magari è implicito nei ragionamenti di tutti, cioè che comunque la libertà è anche una responsabilità, cioè nel senso, il sapere che oggi tu puoi fare, puoi dire, puoi comunicare, puoi esprimerti entro determinati limiti, come facciamo noi con Runtime Radio oramai da, vabbè, insomma, in generale i podcast, Italian Podcast Network, da oramai più di 10 anni, è comunque anche quella una responsabilità. Io a volte mi sono anche interrogato riascoltando cose vecchie, dato che comunque, come sapete, Runtime Radio dalle 8:30 fino alle 17 trasmette con un palinsesto fisso tutta una serie di trasmissioni che abbiamo fatto, insomma, nell'arco degli anni. A volte riascoltando dei pezzi mi sono interrogato anche sulla mia responsabilità di aver magari espresso determinate cose, o dell'essere stato troppo libero a dire magari una determinata cosa, o di essermi sentito troppo libero per poter dire una cosa che magari avrei potuto non dire, perché magari non percepivo in quel momento, diciamo, non avevo la giusta sensibilità per comprendere se quella cosa potesse essere dannosa o potesse essere positiva. Che non significa che uno non deve dire le cose se comunque in qualche maniera sono l'espressione di quel momento della propria vita, però bisogna sempre fare attenzione a quello che si fa in generale. Questa cosa del senso di responsabilità è una cosa che condivido assolutamente, e non solo condivido assolutamente, ma faccio anche mia. Però poi dopo, chiaramente, il concetto di Alex poi prende una deriva strana, cioè tipo io sono libero di prendere la macchina e quindi posso uccidere qualcuno, cioè vabbè, insomma, no, Alex, non penso che sia sia questo il discorso di fondo, insomma, vabbè. Comunque c'è Bob. Far between the mistitled prostitute for the misdemeanor. Ma guarda, mi viene in mente uno scampolo di una trasmissione che andava su MTV o Tele Monte Carlo, adesso non mi ricordo come si chiamasse all'epoca. Si chiamava Avere 20 anni, sicuramente la conosci. E c'era il tizio, di cui adesso non ricordo il nome, che andava al congresso di Forza Italia, no, a intervistare così la gente, a dire la libertà, la libertà. E insomma, una tipa che era una di quelle donne, sai, tutte prese bene, Silvio, meno male che Silvio c'è, era lì tutta baldanzosa, diceva: ma secondo me insomma, gli sparava un sacco di cazzate. E il tizio, adesso non mi viene il nome, peccato, perché vabbè sicuramente te lo ricordi, è un tizio magro con la barbetta, bravo ragazzo, vabbè, niente, gli dice: ma qual è un valore di Forza Italia? E questo gli fa: ma te ne potrei dire 100. Lui: vabbè, dimmene uno. Te ne devo dire uno: la libertà. E continuava così, andare avanti. Ma cos'è per te la libertà, no? Libertà è essere libero, essere libera, è poter fare quello che voglio senza... E poi è attaccato il solito pippone: senza che i comunisti mi tolgono la proprietà privata, tutte quelle robe lì, no? E quindi il tizio lì era basito e poi se ne andava, perché non è che vai lì a fare il troll, non era come Saverio Tommasi, no? Che anche lui, vabbè, ha degli aspetti positivi, ma è un provocatore. Questo qua andava lì e semplicemente prendeva atto di questa cosa qua. E mi è rimasto in mente. Poi, che cos'è per me la libertà? Vabbè, la solita roba che insegniamo ai ragazzini a scuola è: la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Ma che cos'è per me, che sono Capitan Chitarro o Kate Arrow, detto anche come che mi chiamano Pretending to be Macklemore oppure Malkmus, che fra l'altro è il chitarrista dei Pavement. Che cos'è per me? Andare a scandagliare i bordi, gli angoli, i confini, e andare a penetrare l'essenziale sotto la superficie delle cose, perché come diceva Calvino, la superficie delle cose è inesauribile. Quindi come faccio io ad approfondire, come faccio ad andare dentro, come faccio ad essere completamente oggettivo? Dovrei essere morto. E quindi essere libero è essere morto. Tocchiamoci le palle, va. Strung out ones and worse, and for every hung up person in the whole. E questo era Capitan Harrow, Capitan Chitarro, Capitan come ti chiami, non lo so, radio anziano ragazzi. E, essere libero e essere morti non è una cazzata, ragazzi. Io insomma ci farei un pensierino sopra, non sulla morte naturalmente, ma comunque su questo tipo di ragionamento, perché poi in effetti, come abbiamo detto, cioè nel senso, per pensare o addirittura per considerarsi liberi bisogna essere in grado di estraniarsi completamente, no? Essere, come diceva, totalmente oggettivi, no? Completamente distaccati anche dalla propria realtà, no? Dalla propria esistenza e anche dal proprio vissuto, quindi da quello che ovviamente anche il mondo che ti circonda in qualche maniera influenza te. Quindi ecco, diciamo che questo mi ha colpito molto, questo ragionamento finale, al di là del racconto che faceva prima, che tra l'altro io ricordo il video, è incredibile, cioè la libertà, cioè sì, ma magari è incredibile quanto certi ricordi comunque in qualche maniera sono appoggiati dentro un neurone galleggiante nel tuo cervello, stanno lì e poi a un certo punto qualcuno te li riaccende e in qualche maniera parzialmente si riaccendono, ed è una cosa veramente incredibile. Ho provato a fare anche un esperimento per vedere insomma il ducking di Radio DJ, che non è proprio, ha funzionato, ma mi aspettavo che funzionasse meglio, volevo fare una cosa in live più stilistica, però insomma alla fine bisogna conoscere anche un po' gli strumenti, queste cose si facevano bene con Ableton Live, però vabbè, a noi ci serve più un programma radiofonico che un programma per fare i set DJ insomma in giro per il litorale dei Bori. Detto questo, ragazzi, c'è un audio di Carlo che dura molto, quindi lo metterò alla coda, cioè nel senso non ci parlerò sopra, però non mi va di non metterlo, però dura 6 minuti e un po' ci taglia un po' una cosa. Invece voglio concludere questa puntata, magari aspettate un secondo, sì, ok, voglio concludere questa puntata con il pensiero di una persona che io ho conosciuto tramite Francesco molto tempo fa, Michela te lo ricorderà, che ogni tanto magari ci si saluta in qualche modo, però non c'è modo di avere contatti ravvicinati, però quando vado su insomma a Reggio Emilia capita insomma che magari ci si rincontra, se capita, e non lo so, non aggiungo altro, però è un punto di vista sul quale io non farò un commento, passerò direttamente ai saluti, però è un punto di vista, perché noi a volte ci incaponiamo a cercare la nostra libertà, libertà per gli altri, il nostro senso di libertà, che a volte finisce per essere, non dico ripetitivo nell'espressione, non dico superficiale, però a volte dobbiamo sempre considerare che ci sono anche situazioni diverse, punti di vista diversi, che a volte ci dovrebbero anche insegnare qualcosa. Per me, guarda che la libertà è tante cose, la libertà è anche fare e pensare a cose diverse dallo stare quarantenati 2 mesi in casa dopo un anno e mezzo di quarantena. Ed è anche poter condividere una birra all'aria piuttosto che una pizza. Cosa dire ancora? Più o meno questo. A un certo punto c'è sta uno che abbassa e comincia a parlare sopra il Dream Theater, e questo fa incazzare a tutti, io lo so, però ragazzi, o tiemp, e ringrazio Giorgio che a me fa pensare sempre a qualcosa che è poi molto mio, no? Perché a volte penso noi siamo lì, ci spertichiamo, filosofeggiamo, ci impicchiamo il cervello per cercare di capire che cos'è la libertà, pontifichiamo, facciamo cose, intanto gli operai mi stanno camminando praticamente sulle spalle. Però in realtà a volte per alcune persone o in generale, oppure potrebbe anche essere così per tutti, la libertà può essere anche la libertà di guardare un tramonto o di farsi una corsa o cantare a volte, cioè fare tutte quelle cose che magari non ti sono così facili da fare per ragioni oggettive, cioè magari comunque per condizioni personali, no? E quindi alla fine vedi che tutto deve avere una dimensione in qualche maniera, e più noi abbiamo una condizione diversa e più ridimensioniamo le nostre pretese nei confronti delle parole che ci circondano. Però questa cosa non deve essere solo per dire, vabbè, tu non puoi vedere il tramonto e allora per te la libertà è quello. No, dovrebbe essere così per tutti, cioè capire che a volte bisogna sottodimensionare e abbassare anche i nostri concetti e cercare di vedere anche nelle cose più microscopiche, più semplici, che anche lì c'è una forma di libertà, anzi, soprattutto lì è una forma di libertà. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, spero che questa sia stata una bella puntata. Vi ricordo, domani mattina alle 8.30 saremo in live io e Michela con Disordinati Informati. Vi ricordo che domenica c'è tutta quanta la rotazione di Runtime del meglio della settimana, da lunedì, quindi lunedì e il mercoledì alle 7 di mattina Leo Vargion con Il Mattino Allora in podcast. Poi gli altri live fissi sono quelli di Walter Sbano con Le Orazioni della Sera il martedì, mercoledì e giovedì alle 20, e poi al 21.30 di giovedì torna Quando Eravamo Futuro con Il Pensiero Analogico, l'home video nell'epoca della pirateria, quella brutta, insomma. In generale parleremo di questo grande fenomeno degli anni 80, insomma, ma cercheremo di fare anche un ragionamento su quello che è ovviamente il pensiero analogico. E sabato 21 invece, incredibilmente, di sabato invece che di venerdì, c'è Runtime by Night, dove ci sarà ospite ovviamente anche il nostro amico di Radio Anziano, con il quale condivideremo ovviamente la nostra serata di riflessioni, introspezioni e deliri vari, che poi insomma sapete come va a finire, insomma. E detto questo, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla chat, quindi Walter, Leo, Michela, Radio Anziano, Francesco, insomma, ho visto insomma che c'era un po' di gente, poi ho visto che avete anche conversato fra di voi, questo mi fa molto piacere. Grazie di tutto, grazie di esserci stati, e ci vediamo alla prossima puntata, che è quella ovviamente della prossima settimana, dove parleremo di, aspettate, facciamo così, ecco, perché insomma, ecco, chiudiamo in questo modo, della prossima settimana, appunto, dove ci parleremo appunto di living in a box, cioè nel senso, cosa vorreste fare o potreste fare, o se avete il desiderio di fare per cambiare la vostra vita in funzione della libertà di gestire il vostro tempo, oppure addirittura di prendere e fuggire. Living in a box, voi vivreste in un camper? Ve ne andreste a fanculo? Questa è un po' la grande domanda di questo prossimo episodio. Nel frattempo vi lascio con l'audio di Carlo, che vi lascio alla fine in modo che insomma ve lo possiate ascoltare, e noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti, sono Carlo Sant'Agostino. La parola libertà. Quasi tutti, credo, durante la loro vita si sono interrogati sul significato della parola libertà. Almeno io l'ho fatto più volte. E la conclusione a cui sono giunto è che la parola libertà non ha il significato che la gente normalmente gli dà, o comunque quello per cui è normalmente utilizzata. In realtà il concetto di libertà è complesso. La conclusione a cui io sono arrivato è che la maggior parte delle persone la utilizzi in maniera errata, cioè utilizza la parola libertà, ma in realtà sta pensando a felicità. Cioè utilizza la parola libertà per indicare la propria o il proprio grado di felicità, che in realtà non c'entra nulla con il concetto di libertà vero e proprio. Di solito si tende a pensare che la felicità sia limitata dalla quantità di libertà. Mi spiego meglio. Penso che se non sono felice, allora è perché non sono abbastanza libero. Se fossi più libero, sarei più felice. Che è un concetto assolutamente errato come base di ragionamento, perché vorrebbe significare, e molti pensano anche questo, che se io per esempio vivo in un paese o in un periodo dove ci sono più limitazioni alla libertà personale, allora sono meno felice di un periodo in cui ce ne sono di più, o non sono per niente felice. Vero è che però che la mia felicità o il mio grado di felicità molto spesso è a discapito della felicità di qualcun altro. È indubbio che il nostro benessere sia in questo momento risultante anche da uno sfruttamento di altre popolazioni. È indubbio quindi che, ritornando al vero significato della parola libertà, la libertà non può esistere senza una privazione. Quali sono i valori, cioè come capire i giusti valori di libertà e di negazione è complicatissimo, perché le azioni sono legate a una morale. La libertà quindi di oggi è figlia di una scelta morale. Cambiando la morale cambiano i concetti di che cosa è lecito e che cosa non è lecito. E quindi la libertà di fare delle cose può esistere in un determinato periodo e non esistere in quello successivo. Il caso che stiamo vivendo della pandemia e del Covid ne è un chiaro esempio. Il fatto di poter gestire i valori di libertà e di privazione, decidere cosa è lecito e cosa non lo è qualcosa che per essere corretto necessita di un livello di cultura elevato. La mia conclusione è quindi che l'istruzione è il parametro fondamentale, o almeno lo è il livello di istruzione, e quindi l'unica salvezza della società è legata a quanto l'istruzione sia libera, accessibile e obbligatoria per tutti. Il fatto che l'istruzione, che il livello di istruzione regoli questo è indubbio, perché per il famoso detto, la famosa frase di Socrate, è sapiente solo chi sa di non sapere. Chi si illude di sapere ignora la sua ignoranza. Quindi il punto di partenza è sempre il rispetto e la discussione, quindi la salvezza è nell'istruzione. Viva la scuola! E speriamo che più andiamo avanti e più si capisca questo concetto, fino ad arrivare a un mondo dove l'unico obbligo sarà quello di studiare e istruirsi, da cui poi gli altri obblighi non dovranno essere per forza così tanti o così vincolanti, perché se si diffonde la cultura, questo permette anche un certo grado di anarchia, in quanto la cultura permette di convivere meglio, in quanto si rispetta la posizione, perché chissà viene rispettato, e non ci si pone come maestri di qualcosa di cui non si conosce, ma la posizione è quella di rispettare chi conosce qualcosa e di imparare e di essere rispettati se si parla di qualcosa di cui si è a conoscenza. Runtime Radio non è semplicemente una web radio. Il nostro progetto nasce come realtà di aggregazione di tantissimi programmi nati in podcast. Il podcast è e resterà sempre il nostro core fondamentale. Cerca Runtime Radio su Spreaker.com e troverai tutti i nostri programmi. Runtime Radio, quelli che sono arrivati per primi.